Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Fantasia 2000, che è considerato il 38esimo classico Disney ed è del 1999. Il film può essere considerato come il seguito dell'omonimo Fantasia del 1940. E come questa pellicola, l'obiettivo è porre la musica come elemento centrale del lungometraggio, che è organizzato in 8 episodi. Inoltre questo film è stato fatto per il 60esimo dall'uscita di Fantasia. Tutti gli episodi sono ovviamente incentrati sulla musica, e alcuni hanno delle animazioni più astratte, come per esempio il finale suggestivo L'uccello di fuoco, oppure il carnevale degli animali, o il concerto in pianoforte numero 2 in fa maggiore. Di conseguenza ci sono molte animazioni che hanno temi più astratti, degli animali, della natura, insomma in generale un modo per mostrare un po' anche la maestria degli animatori Disney, che sicuramente dal primo Fantasia sono cambiate, inserendo nuove tecniche, come per esempio anche il live action. Infatti molto spesso all'interno del film si trovano alcune comparse di attori, tra cui per esempio Angela Lansbury, oppure anche i musicisti stessi che suonano e presentano i brani. Altri episodi invece hanno anche delle trame, come per esempio Rhapsody in Blue, che vede quattro personaggi in una New York del periodo della Grande Depressione che si incontrano e quindi la trama di questo episodio parla di loro. Questo film è da considerarsi come un tributo per il primo Fantasia del 1940, quindi il successo sarà discreto e comunque va inserito all'interno del suo contesto, ben guardando alla maestria delle animazioni e all'inserimento del live action, quindi in generale è stato ben accolto dal pubblico. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.